Storiacce di Raffaella Calandra. Lo hanno trovato qui, vicino al cassonetto della spazzatura all'esterno di una fabbrica di pavimenti a Laurentino. Si tratta di un uomo seminudo, ai piedi legati, era incastrata tra le pietre in frangionde di un canale di Garlasco nel Pavese. Disteso sul pavimento della cucina di casa sua con il cranio fracassato e tre giubbotti che ne coprivano il cadavere. Prende uno dei coltelli del set della cucina e lui da dietro la colpisce prima nelle parti della giugulare del collo, ma anche poi la colpisce sull'addome, anche dietro. La moglie urla perché. E perché, io vi chiedo, alcuni casi di cronaca nera emergono da sperduti paesini fino ad allora sconosciuti e diventano all'improvviso il giallo che tutta l'Italia segue? Perché all'improvviso delle persone con vite ordinarie escono dal loro anonimato per diventare i protagonisti di storie di cui tutti parlano e di cui tutti o comunque molti vogliono sapere sempre di più? Pensateci un attimo, basta fare nomi di località come Cogne, Garlasco, Avetrana e subito nella testa si compone come una geografia criminale. E mentre si scandagliano le vite di altre vittime e di nuovi assassini, noi vogliamo farci un'altra domanda. Cosa significa per gli investigatori avere il fiato sul collo dei media? Il modo in cui stampa, radio e TV si buttano su certi casi, come viene vissuto dall'altra parte, dalla parte di chi deve effettivamente cercare l'assassino e ha i suoi tempi e le sue regole non sempre compatibili con quelli della messa in onda? Con queste domande allora parte questa puntata di Storiacce. Se vi va scriveteci al 349-238-6666 anche con messaggio WhatsApp oppure sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raff Calandra. In fondo il loro timore dal primo giorno era che Gloria non tornasse e Gloria non è più tornata. Chiede collaborazione operativo di Torino con quello di Andrea. E nonostante, in un certo senso, la pressione mediatica. Che significa indagare nonostante la pressione mediatica? Come dicono gli investigatori di Ivrea che hanno lavorato al caso Rosbok, il delitto di Gloria Rosbok, l'insegnante la cui morte ha catapultato Castellammonte nelle case di tutta Italia, è uno degli ultimi casi di cronaca nera a tenere avvinti migliaia di spettatori di programmi televisivi, a conquistare paginate intere di tutti i quotidiani, non solo i più popolari, a provocare reazioni e commenti sul web, sui social, sui blog. Per giorni i titoli sulla vittima, sulla truffa subita e ancor di più sull'ex allievo Gabriele, sul suo presunto complice Obert, sulla loro personalità, sul loro passato, sui cambi di identità si sono susseguiti tra interviste, indiscrezioni, notizie esclusive, come si ama sottolineare in certi contesti, soprattutto televisivi, e ricostruzioni varie. La gente si ferma, ascolta, lo share sale. Ma tutto questo può avere delle ricadute in chi fa un altro mestiere, in chi cioè deve trovare prove moventi e colpevoli veri e non solo sospettati della durata di un talk show? L'urgenza di avere sempre novità, qualcosa da raccontare nelle infinite dirette, rischia di provocare ricadute sulla gestione delle indagini? Quando si pensa al rapporto stretto tra cronaca nera e media, subito viene in mente un caso, il delitto di Cogne, quando per più di un mese centinaia di cronisti di ogni testata piombarono tra i monti di Aosta, anche la sottoscritta, e nella piccola procura allora guidata da Maria del Savio Bonaudo. Mi aspettavo che questa pressione durasse per un paio di giorni, poco, e invece, come forse anche i giornalisti si aspettavano e speravano, perché sono stati un po' tutti sbattuti su ad Aosta, il peso di questa pressione si è aggravato proprio per la sua durata. Io non potevo né entrare né uscire dall'ufficio senza essere immobilizzata. Ho provato anche ad andare avanti, però è successo il finimondo con microfoni che finivano negli occhi di uno. Ho proprio capito che era necessario fermarmi, ma poi magari dicevo, cosa vuole dire? Non è che io possa rivelare i segreti delle indagini. Però nel frattempo uscivano le notizie più varie da altre parti, in alcuni casi assolutamente false e in altri casi anche vere, però diciamo che avevamo delle ipotesi e queste venivano anticipate magari come dati di fatto. È molto difficile che non trapelino delle indiscrezioni. È sempre così, soprattutto quando c'è un'attenzione così forte e poi ci sono tante parti in causa. Però voi inevitabilmente dovevate tener conto anche di tutto quello che all'interno soprattutto delle infinite trasmissioni televisive usciva e poi ancora di quello che gli stessi protagonisti delle vicende dicevano? Io non è che mi sia messa a leggere tutti gli articoli di stampa, però le trasmissioni televisive le ho sentite anche per rendermi conto di quello che si diceva. Sono uscite notizie assolutamente false, che comunque erano tali da ingenerare nell'opinione pubblica l'idea che in effetti questa indagine, specialmente questo è successo dopo l'arresto della signora Franzoni, e venivano portate delle prove indicate delle prove a suo favore che non esistevano gli atti. Ma io le dico che a distanza di anni delle persone che magari ho conosciuto nel frattempo mi chiedevano: ma è proprio vero? Era proprio lei? Siete sicuri? Queste notizie hanno, assolutamente false peraltro, hanno ingenerato il sospetto che la procura avesse trascurato degli aspetti, degli elementi importanti. Si era creata questa divisione tra innocentisti e colpevolisti appunto nei confronti della Franzoni, come una sorta di schieramento da parte anche un po' di testate diverse. Poi già ci sono gli ospiti in queste trasmissioni che riferiscono come dati di fatto dati che sono magari fasulli. Uno schieramento come quello che sarebbe rivisto anni dopo, quando tutti i riflettori erano su Avetrana, eppure pullman turistici portarono curiosi nel paesino della Puglia di cui tutti parlavano, laddove una ragazzina di 15 anni era stata uccisa. Indagini vere, mai come allora, si mescolarono a messaggi in diretta, a interviste di testimoni che sarebbero poi diventati indagati e colpevoli. Mai come allora i due piani si fusero e neppure il PM nella sua requisitoria poté fare a meno di ricordarlo. Questa Corte di Assise dovrà dirci se Cosima Serrano e Sabrina Misseri hanno ammazzato Sara Scazzi ed in concorso con Michele Misseri ne hanno soppresso il cadavere. Questo processo tratta del massacro di una bambina di 15 anni. Questo, Presidente, non è il processo delle lacrime di Sabrina Misseri, delle lacrime di Michele Misseri, dei silenzi di Cosima. Questo è il processo della morte di Sara Scazzi. Lo sentiremo nella seconda parte di Storiacce, quando andremo anche a vedere le ragioni e le dinamiche di certi programmi televisivi infarciti a piene mani di cronaca nera, del perché sempre più i palinsesti dedichino spazi enormi ogni giorno al racconto dei delitti, ma tutto è aumentato col tempo, con le nuove tecnologie investigative e con un nuovo modo di fare televisione del dolore, nato forse dopo l'infinita diretta televisiva sul caso Alfredino. E di conseguenza tutto questo ha influito pure sul modo di raccontare da parte degli altri media. Ed è così che allora sembra il testimone di un'altra era, anche se in realtà è andato in pensione solo da poco, ma soprattutto il testimone di un differente modo di lavorare e del rapporto tra investigatori e cronisti, il racconto che ora ci fa Antonio Scorpaniti. Per 20 anni alla squadra omicidi di Milano, che poi ha anche diretto, negli anni in cui i grandi banditi imperversavano e il sangue di sicuro non mancava. Io non ho mai avuto grossi problemi con la stampa, sono stato sempre molto ermetico nel gestire le notizie che cui venivo a conoscenza, e cronisti a me sono stati sempre il massimo. Io mi sono protetto e ho evitato comunque di passare notizie che potevano poi essere dannosi per noi, ma anche per loro. Perché quando ci sono delle vicende che poi ogni giorno conquistano ampio spazio sui giornali e nelle rubriche televisive, radiofoniche, quindi ogni giorno raccontano qualcosa, ma non sempre appunto ci sono delle vere novità da raccontare. Ecco, tutto questo un investigatore come lo vive? Insomma, non è questo il problema dell'investigatore. Il problema è quello lì di fare luce sui casi e non è semplice. Mi vengono in mente, pensando a quegli anni, le vicende di Epaminonda, di Vallanzasca. Epaminonda, quando si è pentito, sono stato uno di quelli che si è occupato delle indagini relative alle dichiarazioni a Milano, e si sente la pressione della stampa. Io non ho mai sentito dover per forza di cose dare una risposta entro pochi giorni, perché io ho avuto un ottimo rapporto con i cronisti della questura di Milano, e quando poi sono andato via facemmo una piccola festicciola, vennero molti cronisti e mi fecero un omaggio di una penna accompagnato da un biglietto: grazie anche se non ci hai mai dato una notizia. Grazie anche se non ci hai mai dato una notizia. Mi sembra un bel modo per ricordare che in fondo ognuno fa il proprio mestiere, cronisti e investigatori. Ma come ha ammesso il procuratore del caso Cogne, in una vicenda così mediatica anche gli inquirenti non possono ignorare del tutto quanto avviene sui mass media, trovandosi a volte a cercare assassini nonostante la pressione, come non hanno mancato di marcare gli inquirenti del caso Rosbock. Così tutto diventa una sorta di cortocircuito. Ma perché i palinsesti delle TV continuano a dedicare spazio sempre maggiore alla cronaca nera? Lo andremo a vedere nella seconda parte di Storiacce, nel dietro le quinte anche di certi programmi di successo. Storiacce. A young woman is brutally murdered. The crime itself was truly an ugly crime. From the very beginning, it's a troubled case. Negli Stati Uniti è diventata una serie televisiva di successo, Cold Case, delitti irrisolti, omicidi rimasti senza un colpevole, casi finiti negli archivi senza mai essere chiusi, storie poi all'improvviso riproposte sul piccolo schermo e divenute richiamo per telespettatori conquistati dalle dinamiche del giallo, dall'adrenalina del mistero, dalla voglia di sapere come andrà a finire. Un po' lo schema, come sentiremo tra poco, anche dei vari contenitori televisivi, ma proprio come nella TV, anche nella realtà, capita davvero che dei delitti possono essere risolti anche dopo anni e anni, e assassini possono essere incastrati quando già pensavano di averla fatta franca per sempre. Così, quasi 30 anni dopo, a Varese, arriva la svolta per il delitto di Lidia Macchi, un caso di cui si occupò in TV già Enzo Tortora. Siamo nel gennaio, esattamente il 5 gennaio del 1987. Il signor Macchi telefona in questura dicendo che la sua figlia era andata a trovare qualche ora prima una sua amica all'ospedale di Cittillo, detto non aveva fatto più rientro a casa. 29 anni, tanto tempo è passato dall'omicidio di Lidia Macchi, ma solo questa mattina è stato dato un volto ed un nome al suo presunto assassino. A dare uno scrollone alle indagini è proprio la televisione. In quei giorni Enzo Tortora sta conducendo un programma che si chiama Giallo, e da lì lancia una sfida alla città di Varese. Gente di Varese, dice Enzo Tortora, saresti disposta a farti prendere il sangue per la giustizia? E ancora di più di anni, 32, ne sono passati dall'omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia, tanto che quando a dicembre hanno arrestato il presunto killer, la figlia Paola quasi non ci credeva. Un grande effetto, stamattina quando me l'hanno detto, io tra l'altro ero in classe perché insegno, e ho avuto proprio, come dire, una specie di batticuore. La cosa che sembra incredibile veramente, se, sapere che è stato per 32 anni a Torino, ci fa un po' effetto, insomma, anche un po' rabbia. È stato vittima di che cosa il caso riguardante la morte di suo padre? Abbiamo pensato che non era una persona di primissimo piano. Beh, però un procuratore notizia della Repubblica di Torino. Sì, però l'hanno ammazzato proprio il giorno delle elezioni, è passato subito in secondo piano la notizia. Poi, non so, vedendo tanti altri casi, tanti altri depistaggi, occultamenti, uno pensa sempre peggio. Non faceva piacere parlare neanche a Torino, per dire. Dunque la pressione mediatica può anche aiutare nella risoluzione dei casi, anche se a volte certi spazi che si occupano di cronaca nera, soprattutto in TV, sono accusati di spettacolarizzare il dolore, tanto che ora Campo Dall'Orto ha annunciato per la RAI la scomparsa della cronaca nera da domenica in. Ma giriamo la domanda a Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado su Rete 4. Basti pensare alla morte di una bellissima ragazza siciliana, Valentina Salamone, trovata impiccata, Grazie al quarto grado è stata riaperta un'inchiesta e scoprirono che fu un omicidio. Basta andare a quando è stato arrestato a Varese Stefano Binda, un ragazzo accusato di aver ucciso una sua coetanea, Lidia Macchi. E la svolta su questo caso, dopo tanti anni, è arrivata perché una telespettatrice di quarto grado ha visto in televisione una lettera anonima che i genitori della vittima di Lidia Macchi avevano ricevuto. La famosa poesia. È andata in soffitta, ha guardato tra vecchie cartoline, questa nostra telespettatrice ha messo sulla strada giusta gli inquirenti. Ecco Gianluigi, dall'altra parte però, per dirla con le parole degli investigatori di Ivrea, gli investigatori del caso Rosbok, dicono siamo arrivati alla svolta nonostante la pressione mediatica. Un investigatore è esattamente come un giornalista, cioè si deve adeguare ai tempi della società. Chiede e vuole un'informazione libera, dinamica e soprattutto attuale. Non credo che le indagini vengano ostacolate dai giornalisti. Spesso, soprattutto alla TV, viene mossa un po' l'accusa di fare della spettacolarizzazione del dolore. Questo lento adagio lo sento soprattutto ogni tanto mosso da colleghi più che dal pubblico. Il mio pubblico vuole soprattutto che vengano messe a luce le pieghe del giallo, i retroscena, in una chiave sempre di dubbio. Questi gialli, queste tragedie esplodono in famiglie che assomigliano purtroppo sempre di più alla nostra. C'è dunque quarto grado, ma poi c'è chi l'ha visto e poi i contenitori pomeridiani e mattutini e ancora la cronaca vera anche a porta. Marta Cagnola, collega di Radio 24 che si occupa di TV, dunque sempre più spazio e sempre più share per la TV Verità? L'anno scorso, nel marzo 2015, l'Osservatorio di Pavia aveva presentato una ricerca che si intitolava Televisione del dolore, 3 ore al giorno di cronaca nera. Il 37,1% su Rai 1, il 32,5% su Canale 5, in tutte le fasce orarie. Ma se lo spazio è tanto è perché lo share è molto alto. Lo share è molto alto, vanno tutti molto bene. I casi di cronaca nera possono avere un aspetto di serializzazione che può riportarci ad esempio alla struttura del romanzo a puntate dell'Ottocento. Cioè il pubblico ritorna poi anche il giorno successivo per vuole sapere come è andata a finire. Certo, certo, è comunque sempre una puntata dietro l'altra. C'è il pop che riesce a prendere lo stomaco, la pancia delle persone e c'è la capacità della televisione moderna di mischiare la cronaca nera e di alternarla con altri segmenti, altri toni. E che tutti questo questi... è un po' come poi sentiremo nella rubrica di Storiacce delle mitiche. Storiacce è sempre stato il filo conduttore anche no, dalle antiche tragedie greche un po', no, questa voglia quasi di catarsi nel vedere il dolore negli altri. Marta, chi è che guarda soprattutto questo tipo di programmi? Non pensiamo che il pubblico sia quello delle casalinghe poco colte. Sicuramente in alcune fasce orarie c'è un pubblico più popolare, ma pensiamo al successo di trasmissioni come quella di Franca Leosini, come quelle di Franca Leosini. Storie maledette. Pensiamo ad esempio allo stesso successo di Federica Sciarelli e di Chi l'ha visto, perché molte persone di grande cultura o anche i più esigenti utenti dei social network seguono con molta passione. Funzionano molto anche nella condivisione dei social network. Funzionano tantissimo. L'invenzione dell'hashtag Leosiners che con ironia definisce i fan di Franca Leosini, una trasmissione come Storie maledette che è andata in trending topic, cioè è stato l'argomento più twittato nelle sere in cui andava in onda, anche contro trasmissioni più popolari come Masterchef. Possiamo dire che tutto è cominciato con quella famosa diretta televisiva del caso di Alfredino. Forse ancora prima, per qualche verso, del terremoto del 1980 e poi la storia di Alfredino Rampi che tenne incollati i telespettatori per molte ore. Adesso può sembrare normale, ma all'epoca la TV trasmetteva per poche ore al giorno. Invece lì iniziò una diretta fiume che tenne incollati i telespettatori davvero per 2 giorni. Da lì nacque la TV del dolore, da lì nacque quello che Aldo Grasso ha poi definito il tragico a domicilio. Gli esperti di TV dicono che in realtà tutta la TV è nata da Portobello di Enzo Tortora. Quello è stato forse l'unico genere televisivo che non era stato mutuato da Portobello, che è nato dalla cronaca dei telegiornali, ma che poi dai telegiornali è completamente uscito. È uscito e ha conquistato spazio. Grazie ben più ampi.